I love you. Volita. Ti amo. Te quiero. Anna Bahabak. I love you. Je t'aime. Et je le dis. Ti amo. Te quiero. Volita. Anna Bahabak. I love you. Beep, beep, beep. I love you. Ti amo. Ana Bahabak. I love you. Ti amo.